Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non credo ai fantasmi, non credo nelle religioni, forse non credo in niente, solo che non ne faccio un dramma. Insomma, un giorno andai in centro e mi comprai un mazzo di tarocchi e un libro che ne spiegava l'uso. A casa poi mi sedetti al tavolo della sala e tolsi la plastica dal mazzo. Ciao, sono Gilberto, sono della provincia di Milano, faccio il giardiniere, ho 42 anni. I podcast, devo scaricare i podcast, allora andiamo qui, Radio 24. Dov'è? Podcast, archivio, no, non è archivio, dov'è? Non è proprio, eccolo qua, podcast. Ma no, e che cazzo, podcast. Insomma, ogni volta bisogna fare sto delirio. Iscriviti! Si è creato una specie di strano vortice con questa sera dei podcast e questo video che abbiamo caricato sul profilo Facebook del programma. Voi siete qui Radio 24. Ieri mi ha mandato un SMS un amico dicendomi: ero in metropolitana e ho visto il tuo faccione. E per faccione si intende proprio quello lì con la polo rossa, che è la foto, ahimè, ufficiale. Quella foto lì la feci qualche giorno prima di Vendo Tutto. Noi abbiamo cominciato Vendo Tutto che era metà gennaio del 2010. Ai primi di gennaio mi chiamarono dicendomi: guarda, c'è da fare la foto per il sito, per le cose della radio. E io arrivai con una maglietta rossa, una polo bella anche. Che non so se la colpa era di quello o del fatto che era gennaio e avevo mangiato veramente troppo mascarpone di quello che fa mia madre a Natale, ma c'ha una faccia così in quella foto. E lui mi ha scritto: ho visto il tuo faccione su un telefonino, su un iPhone, non mi ricordo, su uno smartphone di un tizio in metropolitana. Che cosa ci facevi? Io per un attimo non ho capito cosa intendesse, poi ho realizzato, perché non lo sapevo, che tramite la app di Radio 24, dove puoi ascoltare la diretta, dove puoi accedere ai podcast, semplicemente si apre un'immagine quando tu ti scarichi un podcast, che nel mio caso, ahimè, è quella lì, quella del faccione con la polo rossa, che appare appunto sugli smartphone. Questo per dire che, oltre a scaricarvi il podcast, e l'ho scoperto grazie a Davide, oltre a scaricarvi il podcast dal vostro computer e sul vostro computer, potete tranquillamente scaricarvi la app di Radio 24, che è gratuita, e ascoltarvi la diretta, e funziona alla grande, vi assicuro. Guardate, io e Tiziano abbiamo un'app, Paolino, abbiamo un'app che si chiama Radio 24. Cioè, se voi cercate Radio 24 in Apple Store o dove vi capita, non so sugli altri smartphone come funzioni, però vi esce immediatamente la nostra. Dicevo, io e Tiziano Bonini le usiamo spesso le app per ascoltare in streaming le radio, perché non so, da casa mia un sacco di radio non si sentono, neanche da casa tua, so. E vi assicuro che quella di Radio 24 è una di quelle che funziona meglio. Ci sono app di radio più grandi, più antiche della nostra, che sono brutte. Cioè, proprio si interrompono. La nostra invece fila, che è un piacere. I podcast quindi li trovate sull'app di Radio 24, li trovate sul sito, come al solito, sotto l'archivio di podcast. Altrimenti andate su iTunes e vi riascoltate abbonandovi a tutto. La puntata di ieri, in particolar modo, è una puntata che, se non avete sentito, vi consiglio di ascoltare, perché la storia era particolare e molto interessante. Poi perché abbiamo avuto un ospite a cui io tenevo moltissimo, che era Federico Buffa. Se lo conoscete, probabilmente avete già la mano sul tasto per scaricarvela. Se non lo conoscete, scaricatevelo per conoscerlo, perché è un gran personaggio. 349-238-6666. Torniamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi è la puntata che ci ha mandato Gilberto e che, ci crediate o meno, parla in qualche modo, parla sì di tarocchi, ma parla soprattutto di oroscopo. Leone, metaforicamente parlando, per tutta la settimana scorsa hai avuto un sassolino nella scarpa. Hai continuato a pensare: appena possibile devo trovare un minuto per liberarmene. Ma non l'hai mai fatto. Perché? Anche se non era eccessivamente doloroso, ti ha distratto quel tanto che bastava per impedirti di dedicare tutta la tua attenzione ai compiti importanti che dovevi svolgere. Quel maledetto sassolino è ancora nella tua scarpa. Posso provare a convincerti che è ora di toglierlo? Questo, diciamo, è il primo oroscopo che ho trovato cercandolo, che è l'oroscopo, se qualcuno lo conosce, di Rob Bresny, che scrive sul Guardian, giusto? È quello che fa l'oroscopo per il Guardian? No, ho detto una boiata. Semplicemente è inglese, ha un sito. È americano, perfetto, non ne ho azzeccata una. È americano, di San Francisco, quindi non scrive sicuramente sul Guardian, però è l'oroscopo di internazionale, quindi in Italia lo trovate comprandovi quel giornale o andando sul sito. Vorrei sapere però, oggi, che cosa vi ha detto l'oroscopo. 349-238-6666. So che non ci credete, o meglio, se non ci credete, amen, morta lì. Se ci credete invece e l'avete letto, e avete letto quello di stamattina, quello della settimana, o meglio ancora, i primi di gennaio, a fine dicembre, avete letto qualcosa riguardo al 2013, e quindi sapete che andrà malissimo, che andrà bene perché Saturno è entrato in Giove, ne sembra una frattura, oppure perché c'è una congiuntura particolare, 349-238-6666. Più tardi, dopo la borsa, nella seconda parte del programma, sentiremo invece una persona che ci spiegherà, dire che ci spiegherà il senso dell'oroscopo è un po' azzardato, forse ci spiegherà il non senso dell'oroscopo. È un biofisico, è un divulgatore scientifico, lo sentiamo più tardi, vi ripeto, dopo la borsa. 349-238-6666. Se avete letto il vostro oroscopo, che cosa vi ha detto? La prima volta che ho incontrato la carta dell'impiccato è stato nel 1992, in circostanze strane. Quella volta non sapevo ancora niente di tarocchi. Non sapevo neanche che in realtà l'arcano numero 12 si chiama l'appeso e non l'impiccato. Lo incontrai ancora altre due volte nel corso della mia vita. Prima mi faceva paura, mentre adesso siamo diventati amici. La prima volta stavo passeggiando su una spiaggia desolata nel nord della Sardegna. Qualcuno aveva strappato in due un mazzo di carte e le aveva gettate al vento. Non avevo niente da fare. Mi sentivo poetico e nostalgico. Raccolsi tutti i pezzi di carta che potevo incontrare e poi, sdraiato sulla sabbia, mi misi a ricomporle. Era un mazzo di tarocchi economici, tipo gadget per rivista femminile. Non ricordo quanti frammenti avevo raccolto. La cosa strana, però, è che solo due di quei frammenti coincidevano. Le due parti della carta dell'appeso. Rimasi colpito dalla coincidenza e stranamente la interpretai subito come un segno, una specie di avvertimento. Non sapevo cosa significasse l'appeso, ma non mi ispirava niente di buono. No, non sono superstizioso, sono curioso magari, ecco, sì. Mi incuriosiscono queste cose, ma sono assolutamente superstizioso. La seconda volta che incontrai l'appeso fu nel 2000. In Spagna, dove mi ero trasferito. Conobbi una ragazza italo-texana, una miliardaria che veniva nel bar dove lavoravo. Era giovane, cicciottella, simpatica. Ci stava, ma non era il mio tipo. All'epoca ero veramente giovane e mi credevo bello. Potevo scegliere, non come adesso che una cicciottella in vacanza sarebbe la manna. Soprattutto poi se miliardaria. Insomma, quella mi vuole leggere le carte. Una sera si presenta con un mazzo di tarocchi e lo appoggia sul bancone. Io le chiedo il permesso di toccarlo, lei non è d'accordo, alla fine però dice di sì. Io ero quasi nervoso, come se presagissi qualcosa. Tagliai il mazzo e la carta che mi apparve fu naturalmente il 12, l'appeso. All'epoca non ero superstizioso, eppure rimasi davvero turbato da quell'incontro. Poi lei mi lesse le carte, ma non ricordo nulla di quello che mi disse. Passarono ancora circa 10 anni. Intanto ero tornato in Italia, non ero più lo scettico di prima. Avevo imparato che non bisogna chiudersi completamente all'irrazionale, che nella nostra anima bisogna lasciare una porta sempre socchiusa per non privarci della possibilità di ricevere visite. Avevo capito che noi non sappiamo niente della vita e che la logica non è l'unica freccia nella nostra faretra. Avevo imparato che una piccola dose di irrazionale arricchisce la nostra esistenza. Ma non saprei spiegarmi meglio. In fondo la caratteristica dell'irrazionale è proprio quella di sfuggire alle spiegazioni. Non credo ai fantasmi, non credo alle religioni, forse non credo in niente. Solo che non ne faccio un dramma. Insomma, un giorno andai in centro e mi comprai un mazzo di tarocchi e un libro che ne spiegava l'uso. A casa mi sedetti al tavolo della sala e tolsi la plastica dal mazzo. Diciamo che da sempre, insomma, mi sono interessato di queste cose. Avevo iniziato leggendo la mano quando ero ragazzino, perché trovo che attraverso questi mezzi si accede a delle capacità che di solito non utilizziamo, probabilmente, ecco. Deve essere una cosa del genere. Non era la curiosità per il tarocco, era la curiosità forse per me stesso, per vedere che cosa ne poteva venire fuori. Le carte erano nuove, scivolose, odoravano di petrolio. Già immaginavo cosa sarebbe successo, anche se non lo credevo possibile. Le mescolai molto, molto a lungo, prima di decidermi a spaccare il mazzo. Ero molto agitato. Quando mi apparve l'appeso, mi venne un brivido. Dopo però provai quasi un sollievo. Da allora ogni tanto prendo in mano il mazzo e mi diverto a farmi le carte da me. È diventata una piacevole abitudine. Ho imparato che l'appeso mi rappresenta più di ogni altra carta del mazzo. È lì a ricordarmi la mia tendenza ad evitare le decisioni importanti. Rappresenta la mia eterna indecisione, la condizione di chi vive sempre con le valigie pronte, di chi vorrebbe tutto e a causa di questo non ottiene niente. Rappresenta il mio desiderio dell'inaccessibile, la mia malinconia cronica e anche il mio mal di schiena. There'll be no coming back from this. Like a handshake that stops at the wrist. We both know that your wounds were faked. We made a mistake, and we'll pay with the days we spend apart. A tutte le cose si possono dare molte interpretazioni, perfino a quelle che sembrano più semplici. Per cui, per esempio, una nuvola può assomigliare a un coniglio o a uno stivale, dipende da chi lo guarda e da come lo guarda. E le carte possono servire per giocare oppure per la cartomanzia o per prevedere il futuro. Basta girarle e raccontare una storia. I tarocchi sono un tipo di carte da gioco che pare sia nato nell'Italia del Nord, nel Medioevo. Ci sono 78 carte, divise in due gruppi, gli arcani maggiori e gli arcani minori. Insomma, così almeno dice Wikipedia. Nel primo gruppo ci sono 22 carte illustrate con figure umane, animali e mitologiche. Mentre nel secondo ci sono denari, coppe, spade e bastoni. Gilberto ha incontrato spesso quella che raffigura un uomo appeso per un piede al ramo di un albero, chiamato anche l'appeso. A lui serve per ricordare la sua tendenza a evitare le decisioni importanti, la sua eterna indecisione. Però Wikipedia mi dice che quella carta rappresenta il traditore che viene punito per la sua colpa. Chissà quante altre versioni della storia ci possono essere. Però Gilberto sa di non essere un traditore, ma di essere un indeciso. E allora in quella carta ci vede quello, ci vede la sua indecisione. Se io non credo alla cartomanzia, probabilmente è solo perché non ho mai trovato qualcuno che mi raccontasse delle storie convincenti e mi dicesse anche solo indovinando qualcosa in cui io potevo riconoscermi. Se mi avesse catturato, sarei stato felice di chiedergli di raccontarmi il mio futuro, così l'avrei affrontato con meno paura. Forse è per questo che la gente piacciono gli oroscopi, perché scrivono una sorta di sceneggiatura della nostra vita e ci lasciano spazio per interpretarla. Ci dicono come staremo, di che cosa dovremo occuparci, chi ci amerà e quale squadra vincerà il campionato. E noi siamo lì pronti ad affrontare tutto, perfino le delusioni d'amore, perché le storie che vengono raccontate sono scritte bene e comprendono sempre anche un lato positivo. E quindi noi ci attacchiamo a quello e decidiamo che sì, andrà così. E alla fine magari facciamo anche in modo che vada come ci avevano detto. Io ho sempre avuto un modo tutto mio di cercare risposte su come andrà il futuro. Ed era questo: io prendevo un libro a caso e lo aprivo in una pagina a caso. E poi, naturalmente, leggevo una frase a caso pure quella. Pensavo che non c'era un motivo per cui quelle carte potessero dare una risposta, e invece avevo la sensazione che un libro potesse farlo. E che, però, poi l'avrei interpretato io. E ogni tanto lo faccio ancora, di solito mi aiuta a prendere delle decisioni. Per esempio, qualche tempo fa era una roba semplice, dovevo decidere se prendere o non prendere una piccola pianta di limone da mettere sul terrazzo, cioè sul terrazzino, sul balcone. Quindi ho aperto il libro che si chiama La strada di Cormac McCarthy e ho letto questa frase. Mise il bambino a dormire sulla brandina, gli accarezzò i capelli lerci sul cuscino e gli rimboccò le coperte. Questa frase poteva voler dire qualsiasi cosa, ad esempio che negli inverni fangosi e freddi le foglie sporche della pianta avrebbero sofferto e allora non dovevo prenderlo il limone. Però io ho deciso che invece voleva dire che io quel limone lì lo dovevo prendere e trattare come un figlio perché lui aveva bisogno di me. E l'ho preso. E lui è ancora sul balcone. Anche dopo qualche inverno freddo. Ecco, io non credo ai tarocchi, però devo dire che l'unica volta che me li sono fatti fare mi hanno sorpreso da quanto ci hanno indovinato. E forse è per questo motivo che non ci ho più provato. È stata quella volta in cui ero a Genova e in un vicolo mi sono seduto davanti a una signora che ha mescolato le carte. Me le ha fatte alzare, ha alzato la prima e ha visto una montagna molto alta, carica di neve, che si stagliava fino in fondo. As a young girl, Louis Vuitton, with your mother. Sandy lawn as a sophomore with reggaeton and the linen. Un tempo ero schiava dell'oroscopo, adesso evito di leggerli, ascoltarli, farmeli riferire. È come smettere di fumare. Devi scollegare qualsiasi gesto collegato alla sigaretta. E quindi immagino la lettura dell'oroscopo. 349-238-6666. Marco scrive invece sul profilo Facebook del programma. Sono un fisico, anche se volessi non potrei crederci. E probabilmente andrai d'accordo più tardi con l'ospite che avremo. Qualcuno invece, qualcuno, Paolo, perché si firma, mi scrive via SMS, l'appeso, cioè la carta dell'appeso nei tarocchi, rappresenta una persona il cui futuro è appeso a qualcosa, a una decisione non necessariamente propria, però. Forse Gilberto lo sa meglio di me. Pronto, Gilberto? Pronto? Ciao, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. Dove sei, Gilberto, in questo momento? Sono in un giardino. Perché tu sei un giardiniere? Sì, sono giardiniere. Ma scusami, ma il giardiniere in inverno ha tanto lavoro? No, beh, l'inverno il lavoro è poco, però ci sono da potare gli alberi. Io adesso sto facendo degli alberi che si sono rotti con la neve e li sto mettendo in sicurezza, li sto sistemando un po'. Ma quindi hai degli strumenti per arrivare fino in cima a un albero e metterlo in sicurezza? Corde. Ti arrampichi? Sì, più o meno il sistema che si usa per andare in montagna in sicurezza, insomma. Ma quindi hai bisogno di un'altra persona, non lo fai da solo? Sì, diciamo sì, ci vuole una persona che stia giù per ogni evenienza, insomma. E tu, perdonami, come ascolti il programma? Mentre lavori o in podcast? No, non lo stavo ascoltando. No, non adesso, in generale, sì. Ma dipende, a volte sono a casa per il brutto tempo, insomma mi era capitato di sentire il programma diverse volte, ma non è che sono... Ma non sul lavoro? No, sul lavoro non riesco. Ma scusami, perdonami, però il mestiere del giardiniere viene fatto soprattutto per privati, per amministrazioni pubbliche? Per il pubblico in genere sono grosse ditte che hanno tanti operai perché bisogna, insomma, è un altro tipo di lavoro, no? Bisogna dargli una continuità, sono appalti grossi, ci vuole tanto personale. Quindi i tuoi clienti chi sono? La qualità richiesta è un po' privati. Che hanno giardini, ma giardini privati. Grandi o semplicemente piccoli giardini di casa? Giardini non enormi, insomma, roba che si riesce a fare in due persone. Ma è un mestiere che consiglieresti? C'è lavoro? Bisogna essere bravi. Io non lo sono. Come non lo sei? Ho la fortuna che mi accontento di guadagnare poco, va. E come ci sei finito a fare il giardiniere, Gilberto? Come ci sei finito a fare il giardiniere? Come ci sono finito? Per caso, tramite amicizie, mi sono trovato senza lavoro, mi ha detto dai vieni a fare il giardiniere, è cominciato così un po' di anni fa, ma poi non è che lo faccio sempre, insomma. Senti, ma questo ha a che fare con l'appeso? Ma forse in un certo senso il fatto che io non abbia una professione vera e propria, sì, nel senso che sono sempre abbastanza indeciso ancora oggi su cosa farò, cosa non farò. Più che altro mi sembri, Gilberto, perdonami, la sensazione da queste parole di uno totalmente distaccato da quello che gli accade intorno. Cioè, mi sembra che non ci sia veramente nulla che ti tocca veramente. Madonna, non lo so, è complicato questo. No, no, guarda, veramente, come dice il mio amico Matteo, è proprio la psicologia spiccia del supermercato questo, però era una sensazione da quello che mi scrivevi, dal fatto che sembrava tutto, qualsiasi cosa sembrava, sì, è il mio lavoro, ma non è il mio lavoro, bah sì, l'ho fatto per caso. Beh, adesso che mi ci fai pensare, ultimamente diverse persone che mi sono vicine mi hanno dato della persona abbastanza distaccata, anche... un po' stronzo. No, ma quello non era la mia intenzione. Senti, torniamo ai tarocchi. Sì. Tu a questo punto sai leggerli più o meno, sai farli? Sì, dopo da un po' di tempo che non lo faccio più, però c'è stato un periodo che mi piaceva farli così. Sì, insomma, a livelli abbastanza... No, più che altro la storia è la storia di una cosa strana veramente che mi è successa, insomma, perché... La coincidenza era abbastanza forte, no? Eh beh, direi di sì. Una carta che nel mio caso me la sentivo e me la sento tuttora molto, molto vicina, insomma, molto... Senti, ma in soldoni, noi poi in realtà abbiamo girato la puntata parlando degli oroscopi perché è più facile che uno si legga l'oroscopo piuttosto che invece si faccia fare i tarocchi, ma i tarocchi... Come veramente abbiamo 30 secondi, in soldoni come funzionano? Tu scegli delle carte che una persona ha da mettere davanti a te? Ci sono tantissimi sistemi per farlo, la cosa fondamentale è che tu hai la persona davanti, cioè secondo me, sbaglierò adesso, quelli che amano i tarocchi si arrabbieranno, però secondo me è una questione di sensibilità e basta, cioè i tarocchi possono dire qualsiasi cosa, tutti i tarocchi hanno diverse letture, no? La morte è morte, la morte è rinascita. La carta della morte, no? Sì, ma quindi dipende da chi se li fa fare o da chi li fa, perdonami. Dipende da ci deve essere un feeling tra le due persone. Ah. E secondo me è fondamentale che la persona che li fa ci creda. Difatti io non sono... Nel senso, la mia era più che altro una curiosità quasi scientifica, no? Nata... a parte appunto dall'interesse che penso che abbiamo un po' tutti di vedere se certe cose sono vere o false. E poi dopo quando mi è successa questa cosa veramente mi ha incuriosito. Per un po' sono stato abbastanza incuriosito per vedere se succedeva ancora. Di che segno sei, Gilberto? Di che segno sono? Sì, non ci credi, non ti sono dell'ultimo giorno del leone, sono una cuspide. Sei leone, perfetto. Allora ti va bene lo stesso oroscopo perché è il mio stesso segno? Ma, gli oroscopi sono un'altra cosa, gli oroscopi... Uno va lì, guarda le stelle, invece la mano, i tocchi... Cioè sono un'altra cosa ancora. Guarda, è arrivato, e poi ti devo salutare, è arrivato un messaggio di Alisa che dice l'appeso perde monete dalle tasche, è l'uomo che si libera della materialità. Con questo ti faccio in bocca al lupo per tutto e ti saluto, Gilberto. Grazie ciao. Mille, ciao, buona giornata. 349-238-6666, più tardi parliamo di astrologia, o meglio, non parliamo di astrologia, lo facciamo con un biofisico. È davvero splendida la foto che ci ha mandato Gilberto e che trovate sul sito della radio. È un autoscatto, ma è un autoscatto fatto con coscienza. Ha una banana in mano e la sta mangiando, è a torso nudo Gilberto. Ha una collanina di quelle che io da ragazzino impazzivo, al mare volevo sempre prenderle, di quelle nere fatte di piccoli anellini tutti uno vicino all'altro che fanno delle sorte di greche qui davanti al collo. Ha i capelli un po' brizzolati, ha tre orecchini nell'orecchio sinistro, la barba un po' incolta e dietro di lui un panorama direi che si vede dall'alto, quindi è in cima a una montagna ed è qualcosa sicuramente di estero. Potrebbe essere tipo, la prima roba che mi viene in mente, il Machu Picchu. Oroscopo. Sostantivo maschile. La previsione circa il destino di una persona attraverso la data, l'ora e il luogo della sua nascita e l'osservazione delle stelle, alla cui base si considerano le 12 case del cielo, dove si trova uno dei segni zodiacali in congiunzione con uno dei 7 pianeti. La situazione delle stelle è osservata all'ora della nascita di un individuo. Tale situazione si stabiliva anticamente osservando con un apposito strumento quali stelle emergessero in quel momento sull'orizzonte. Aiuto, c'è una roba in greco terribile. Latino tardo e greco. Vabbè. Etimo dal latino tardo horoscopus, dal greco horoskopos, che osserva l'ora della nascita. data secolo XIV. È sempre più splendida nelle sue letture la nostra Alessandra De Luca, soprattutto quando ci legge il dizionario. I messaggi sono più o meno tutti simili a quelli che parlano di oroscopo. Francesca sul profilo Facebook mi scrive: il mio oroscopo dice che sarà il mio anno, ma lo dice ogni anno, tanto vale fare finta di credergli, perché le vie di solito sono sempre due, no? Cioè una è non gli credo però lo leggo, oppure gli credo o gli credo solo quando mi dice che va bene. Io non so perché avevo la sensazione che il mio oroscopo parlasse sempre bene. Non è così, chiaramente non è possibile, però avevo sempre la sensazione che ma è buono l'oroscopo, anche se c'era qualcosa che non che probabilmente non leggevo o non volevo vedere. Sulla stessa rivista a cui sono abbonato, scrive Luis, ho trovato lo stesso oroscopo dell'anno scorso. Domandami se ci credo a ste robe. Luis, io te lo domando, ma io direi che ci credi se sei abbonato a una rivista di oroscopi, no? C'è questa rivista di oroscopi che vende praticamente solo al mese di dicembre, no? Astra, voi avete mai visto Astra tipo al mese di luglio o giugno o marzo? No, Astra, le edicole sono piene solo al mese di dicembre e credo sia l'unica rivista mensile che sopravvive vendendo un mese all'anno. Un sistema che funziona, mi scrive Marco da Verona, sono i Qing. I Qing sono quella cosa cinese, vabbè, è facile dire che sono cinese perché è scritto Qing. Che c'è un libro a caso, una volta me l'hanno fatto anche di recente, e si deve bruciare dell'incenso, no? A me pare che si debba bruciare qualcosa. Vabbè, informarsi meglio per credere, però bisogna stare attenti, perché se tu sapessi che potresti davvero conoscere alcune cose del tuo futuro, le vorresti davvero sapere? Mi scrive Marco da Verona. Vabbè, questo vale per qualsiasi cosa, cioè è la stessa roba dell'oroscopo, cioè che l'oroscopo un po' ci credi quando ti dice bene, un po' no quando ti dice male. L'oroscopo è una specie di piccolo copione della nostra giornata. Tu te lo leggi e ti dici vabbè, la mia giornata va così, poi non andrà così, però ti dà una sorta di tranquillità. Ecco, per cercare di sfatare tutte queste boiate che ho appena detto, noi abbiamo detto, ci siamo detti, perché non proviamo a sentire una persona che scientificamente ci dica se questa roba funziona oppure no, ma soprattutto questa cosa dei pianeti, no, degli astri, dello zodiaco. Cioè, i pianeti influenzano la nostra vita, sì e no? L'abbiamo chiesto a Daniele, che oltre a essere Daniele Venturoli, che oltre a essere autore di un libro è anche un biofisico, e soprattutto un biofisico e divulgatore scientifico. Pronto, Daniele? Salve a tutti. Ciao. Buongiorno. Ricordo il titolo del tuo libro, che è Dalla Luna alla Terra, mitologia e realtà degli influssi lunari. Torniamo alla prima domanda, però, Daniele. Sì. La domanda è: come i pianeti, o meglio, se i pianeti influenzano la nostra vita, sì o no? Ma i pianeti influenzano la nostra vita praticamente per niente. Da un punto di vista scientifico non esiste nessuna prova che ci siano state delle influenze dal punto di vista di moti dei pianeti particolari che possano aver influenzato la vita sulla Terra. C'è un effetto invece importante per tutta la vita sulla Terra in generale, non per una singola persona, per il fatto che ad esempio un pianeti grandi e giganti come Giove e Saturno hanno l'importante funzione, diciamo, di schermo rispetto alle eventuali possibili corpi celesti che vengono da fuori, che girano nel sistema solare, potrebbero impattare sulla Terra. Cioè tipo dei meteoriti? Esatto, e loro da quel punto di vista sono più importanti, perché la loro forza gravitazionale è più importante, quindi cadono prima su di loro piuttosto che arrivare sulla Terra. Ma scusami, ma allora quando uno sente dire le cose tipo Marte entra in Saturno, no, adesso poi dico robe a caso, però sai, quelle robe lì dei trigoni, degli ingressi dei pianeti nella propria... Dov'è che entrano i pianeti? Nelle galassie? Ma no, partiamo dalle galassie. Sembra improvvisamente guerre stellari, ragazzi. No, perché l'astrologia si basa sul fatto, partiamo dall'inizio proprio, che il Sole sia all'interno di una costellazione, per così dire. Quello dovrebbe essere il segno della nascita. Quando il Sole è in quella costellazione, noi siamo nati, quello è il nostro segno. Ok. Però una cosa del genere, in realtà, le costellazioni che vediamo in cielo non corrispondono a quelle usate dallo zodiaco, perché si riferiscono al cielo che si vedeva 4.000 anni fa. Quindi adesso, ad esempio, non so, lo scorpione è spostato di un mese, se uno guarda effettivamente lo scorpione. Cioè, tipo lo scorpione è bilancia, adesso dico bilancia, ma non so cosa c'è dopo lo scorpione. Esatto. Sono praticamente spostate, e poi ci sarebbe anche un'altra un'altra ulteriore costellazione, perché c'è in realtà c'è anche la costellazione di Ofiuco, che in realtà il Sole passa anche da quella. Per un pezzo. Scusami, come si chiama? Costellazione di? Ofiuco. Ofiuco, sembra i bastioni di Orione questa cosa, ho visto. Veramente. Esatto, Kenny il guerriero ad esempio. Sì. Quindi in sostanza ha un valore ce l'ha, però di fatto quelle costellazioni sono costellazioni, perdonami le costellazioni, quelle definizioni sono vecchie di 4.000 anni. Sì, sì, il problema è quello. Poi il fatto, oltretutto, che non esiste nessuna prova che ci siano effetti da un punto di vista di forze a distanze, diciamo così, così potenti da superare le enormi distanze che separano dalle stelle. Perché noi dobbiamo tenere conto del fatto che dalle stelle siamo separati da decine di migliaia di anni luce, e che la stella più vicina è distante decine di anni luce, quindi vuol dire tantissimi milioni di miliardi di chilometri addirittura. Senti, Daniele, tu di che segno sei? Ma io sono Scorpione, ma quello non vuol dire niente. Sei Scorpione? Ah, quindi però sei Scorpione in sostanza. Sì. Però non vuol dire. Abbiamo deciso. Ok, facciamo che abbiamo deciso che non vuol dire niente. Però lo leggi l'oroscopo, gli dai un occhio? Mai, in genere mai. Mai? No. Cioè, non sai ad esempio che anno ti si para davanti? No, assolutamente. Davvero? Perché quello che deve succedere, succede. No, non ho mai guardato un oroscopo, veramente. Ma mai una volta nella tua vita? Ma magari qualche volta quando capita nelle riviste, quando capita diciamo anche nei giornali, a volte succede che uno si imbatte contro e legge per curiosità, ma non certo per crederci o per regolarsi di conseguenza allora, nelle azioni che fa durante la vita. Guarda Daniele, e poi ti lascio andare, visto che non l'hai mai fatto recentemente, io sì. Adesso ti leggo il tuo oroscopo. Scorpione. Prima di decidere che siete affetti da depressione o scarsa autostima, ha detto lo scrittore William Gibson, assicuratevi di non essere circondati da una manica di stronzi. Questo dice William Gibson. Mi sembra un buon momento per controllare se il consiglio di Gibson si applica anche a te, Scorpione. Negli ultimi tempi, la percentuale di imbecilli intorno a te sembra essere aumentata. Ma in realtà, stavo scherzando, fino a un certo punto però. È vero che faresti bene a ridurre l'influenza degli idioti sulla tua vita, ma forse dovresti anche chiederti come avere meno problemi cambiando qualcosa in te stesso. Questo, vabbè, Daniele, questo in realtà è una specie di oroscopo. È una di quelle cose che si adattano a tutti in realtà, perché se non ci penso un attimo... il cerchio si chiude. Sono delle cose che si adattano perfettamente, e se uno toglie il fatto che sia dello Scorpione e lo attacca, non so, alla Bilancia piuttosto che all'Acquario, e sono delle passime del tutto generali, direi. Ora... Guarda, hai perfettamente ragione, ti dico la verità, però un motivo per cui sono affascinato dall'oroscopo è semplicemente che di solito è una bella storiellina. Ti ringrazio... Quello è verissimo, guarda. Ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera. Vi ricordo che il libro di Daniele Venturoli, che ha scritto insieme a Marta Erba e Gianluca Ranzini, si intitola Dalla Luna alla Terra, mitologia e realtà degli influssi lunari. Grazie mille, Daniele. Grazie anche a te. Ciao, buona giornata a tutti. Salve, ciao, salve. Grazie. Ciao. Mi ha risposto quell'ascoltatore che mi diceva: dimmi se credo agli oroscopi. Sulla stessa rivista a cui sono abbonato c'era lo stesso oroscopo dell'anno scorso. Mi dice: il bello è che non è una rivista di oroscopo, semplicemente nell'ultima pagina c'è l'oroscopo. Quindi, ok. Quindi la risposta è no, non ci credi. Invece mi ha riscritto Alisa, che prima parlava dell'appeso, diceva l'appeso per dei soldi. Alisa è una che ne sa, immagino, di tarocchi. I tarocchi non predicano il futuro, possono servire come archetipi per visualizzare problemi, ma per riuscire ci vogliono anni di pratica. Per riuscire, immagino a leggerli i tarocchi. E l'ultimo è Roberta, che dice: anno catastrofico per il Toro, non vorrei crederci, ma comunque è iniziato davvero male. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni, grazie a Stefano D'Andrea, grazie soprattutto a Gilberto. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Giulia e vivo a Milano, la storia di domani è la mia e parla dei mondi nascosti dietro una porta. Questa è la mia storia e io sono qui.